Al Falak, l'alba nascente. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Di, mi rifugio nel Signore dell'alba nascente. Contro il male di ciò che ha creato. E contro il male dell'oscurità che si estende. E contro il male delle soffianti sui nodi. E contro il male dell'invidioso quando invidia.